Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Un buon pomeriggio, un ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è Lontano. Vi porgo i saluti anche da parte di Antonio Talia, Eleonora Aragone, Silvia Marnati in redazione con me e Andrea Roccabella che è in regia. Per commentare i temi di quest'oggi, SMS o WhatsApp al 349-238-6666, Twitter Nessun Luogo 24 oppure Giampaz, infine Facebook, cercateci. Siamo Nessun Luogo Lontano, trattino, Radio 24. E come promesso dalla anticipazione delle ore 13, vi porto in Sudafrica. We are definitely slowly and surely saying goodbye to 2016 municipal elections after an incredible showing of South Africans. In Sudafrica si sta completando lo spoglio per delle importanti elezioni. Sono locali, sì, ma capiremo la loro importanza grazie agli ospiti che con me commenteranno questo importante appuntamento elettorale. La voce che avete sentita era quella indiretta dalla Commissione Elettorale Indipendente. Se siete curiosi e volete sapere come sta proseguendo lo spoglio, c'è un sito che in diretta vi sta raccontando appunto l'andamento degli scrutatori, election.org.za. Allora andiamo direttamente a Pretoria, lo facciamo con Gaia Manco, che è una giornalista freelance a cui do il mio buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano. Gaia. Sì, buongiorno da Pretoria. Allora, che aria tira Pretoria? È stato completato lo spoglio? No, manca pochissimo però, credo. Manca poco, manca pochissimo nella città di Pretoria e Johannesburg. Io mi trovo qui nella capitale, che è la capitale della regione più combattuta in assoluto in queste elezioni, che è la regione del Gauteng, appunto con Johannesburg e Pretoria. Non siamo ancora arrivati allo spoglio finale. In realtà lo spoglio è stato fatto, ma qui, per questione proprio di rendere il voto giusto e legale, si fa un doppio controllo, quindi questo secondo controllo non è ancora stato fatto, quindi i risultati non sono ufficiali. Chiarissimo. Se lo fossero, siamo in una situazione che io direi elettrizzante, ma in maniera positiva, perché c'è un'area veramente di cambiamento. Le persone sono, nella maggior parte, io ho visto anche contente di questo cambiamento, ma è soprattutto curiosa di che cosa succederà, perché agli ultimi dati i due partiti principali, quindi l'ANC, il partito di governo, e la DA, quindi il partito dell'opposizione, sono a 0,05 punti percentuali di distacco. Quindi un vero testa a testa. Sì, esattamente, hanno tutti e due circa 41,7% dei voti. E questo dopo un predominio durato anni e anni da parte dell'African National Congress, poi ricorderemo insomma anche la storia del paese, potrebbe, anzi è già una notizia in vista poi delle elezioni legislative del 2019. Allora credo che sia utile ricapitolare la situazione del paese, del Sudafrica, l'ascoltiamo insieme. La politica del Sudafrica sta vivendo una storica inversione di marcia. Le elezioni amministrative, che si sono svolte il 3 agosto in 278 comuni, hanno prodotto un risultato temuto, ma atteso. L'African National Congress, il partito di Nelson Mandela, al governo dal 1994, per la prima volta dà segni di sofferenza. L'ANC ha infatti preso l'8% di voti in meno rispetto allo scrutinio di 5 anni fa, ottenendo il 54% dei consensi contro il 62% del 2011. Un dato inquietante per il governo, dato che le amministrative rappresentano una prova importante per testare la salute del partito prima delle presidenziali del 2019. A guadagnare terreno è invece la Democratic Alliance, l'oppositore politico principale dell'ANC, che nelle tre più grandi municipalità metropolitane, Johannesburg, Nelson Mandela Bay e Tshwane, ha fatto scendere i consensi dell'African National Congress sotto il 50%. Subito dopo la DA hanno preso molti consensi le forze di estrema sinistra, riunite nel partito Economic Freedom Fighters. La sconfitta dell'ANC dipende da diversi fattori. Da una parte, la popolazione è insofferente rispetto ai continui scandali di corruzione che macchiano il presidente Zuma. Dall'altra, è delusa dalle politiche del governo, incapaci di fare fronte a una disoccupazione salita al 27% e a una crisi economica che sembra inarrestabile. E intanto, mentre il paese decide il suo futuro, in Sudafrica proteste e manifestazioni di rabbia continuano ad essere all'ordine del giorno. Questo è un piccolo quadro per meglio comprendere l'appuntamento elettorale che si è svolto e che sta giungendo a compimento con appunto lo scrutinio. Scusate, Gaia Manco, da poche ore hai sentito un po' di voci, soprattutto studenti di varie parti della regione lì all'Università di Pretoria. Le ascoltiamo insieme e poi le commentiamo. Fra queste c'è Piet, al quale hai chiesto cosa ne pensa della situazione politica sudafricana. Lo ascoltiamo. It's very tight. And it's very interesting now. È molto interessante. Adesso la EFF e la DA, seppur con quelle differenze di politiche e col fatto che la EFF non vuole lavorare con la ANC, saranno le chiavi di volta di queste elezioni, se nessuno otterrà il 50% più uno. No one get 50 plus one. Elezioni in Sudafrica, elezioni municipali, elezioni amministrative, le voci dei giovani elettori. Sempre Piet, al quale Gaia Manco ha da pochissime ore chiesto chi vorrebbe che vincesse. Vedi, qui a Johannesburg il pedaggio autostradale è la prova che la ANC non ascolta la gente. La loro arroganza li sta portando alla loro caduta, perché un sacco di persone che vive nelle aree urbane non vuole il pedaggio elettronico. Il congresso nazionale della ANC è in conflitto con il congresso provinciale della ANC. In questa storia, per esempio, l'ANC locale voleva toglierlo, ma i nazionali hanno detto di no. Hanno detto che hanno preso i soldi da una compagnia australiana per costruire questa strada a pedaggio e adesso la gente deve pagare, però la gente ne ha abbastanza. So now people must pay. So like people are fed up with that. E quello che avete sentito è evidentemente uno dei temi più sentiti dai giovani sudafricani. A questo punto d'obbligo la domanda che Gaia Manco ha rivolto al giovane elettore è come andrà a finire. Sentite. Nessuno avrà la maggioranza, quindi ci sarà una coalizione. Penso che vincerà la DA, ma a quel punto si dovranno sedere a un tavolo con le FF. Quindi non so cosa ne uscirà. Alla fine la DA governerà e se questo accadrà, se la DA governa le città metropolitane, tra 3 anni qui vinceranno le elezioni politiche. È successo anche a Cape Town. Hanno cominciato con la città di Cape Town e l'hanno governata bene. Poi hanno preso la provincia. Quindi credo che se prenderanno le aree metropolitane qui in Gauteng, fra 3 anni andranno alle politiche e le vinceranno. Se prenderanno il Gauteng, riprenderanno il paese. And if they take Gauteng, they're going to take the country. E quella elettrizzante atmosfera che ci restituiva Gaia Manco da Pretoria, in cui le cose stanno cambiando, nuovi equilibri sono all'orizzonte, ce le ha restituite anche un'altra giovane elettrice, Silvia. La domanda è la stessa: hai votato e come credi che andrà a finire? I did vote. And my reasoning for voting is, I think, ho votato. Io penso che il nostro paese abbia attraversato talmente tanto nel passato che è molto importante per me esercitare il mio diritto di voto. Sono una fiera sostenitrice dell'ANC, essendo anche politicamente attiva. Quindi sono un po' delusa dai risultati del partito, specialmente qui in Gauteng. Ma come studentessa di scienze politiche, credo che questo risultato crei un sistema politico molto dinamico. Quindi sono combattuta. So I'm conflicted. Allora, siamo in diretta da Pretoria con Gaia Manco, giornalista freelance che sta coprendo queste importanti elezioni municipali sudafricane. Gaia, aiutaci a districarci nei dei dali delle sigle. In realtà poi i protagonisti sono tre. Abbiamo l'African National Congress, la Democratic Alliance e l'Economic Freedom Fighters. Prima c'era una, per decenni c'è stata una strapotere del partito di Mandela, dell'ANC. Adesso nuovi soggetti politici si affacciano con forza. Aiutaci a capire questo nuovo scenario politico. Sì, è una cosa che anche i sudafricani, devo dire, stanno cominciando a capire soltanto adesso, perché la loro vita negli ultimi più di 20 anni è stata dominata da un partito solo, eletto naturalmente, c'è da ripetere, in maniera assolutamente democratica, però c'è stato sempre un monopartito al governo. Adesso invece abbiamo un partito dell'opposizione che è sempre esistito nella storia del Sudafrica democratico, che è la Democratic Alliance, che ha avuto talmente tanti consensi prima da prendere una città alla volta, cominciando dalla zona di Cape Town, e che poi si sta spargendo appunto con questa elezione a tutto il paese. Questo partito è interessante perché fino all'anno scorso era un partito prevalentemente bianco. Ora, i vostri ascoltatori mi dovranno scusare, ma in Sudafrica tutto ha un colore. È impossibile non parlare del colore delle organizzazioni, delle istituzioni. E la Democratic Alliance è un partito bianco. Tuttavia, dall'anno scorso ha un nuovo leader che viene qui chiamato l'Obama di Soweto, appunto originario di Soweto, la township di Johannesburg, che si chiama Musi Maimane, che è nero e che ha rivoluzionato, e comunque che è l'esempio della rivoluzione che c'è stata all'interno di questo partito, che adesso non si identifica più con l'essere bianco, ma con il Sudafrica multiraziale, o almeno questa è l'immagine che si presenta. Sì, il cambiamento che tu ci stai aiutando a comprendere è avvenuto anche all'interno delle famiglie. Fra le altre voci che hai raccolto c'è quella di Kirsty. Allora, tradizionalmente le famiglie avevano un voto abbastanza unitario, invece durante quest'ultimo appuntamento elettorale si è scoperto che padri e figli, nonni, zie e nipoti, alla fine ognuno di loro ha fatto la scelta che preferiva. Sentite cosa dice Kirsty, un'altra giovane elettrice. My family specifically, it's actually quite funny. I wore an ANC t-shirt. Sì, specialmente nella mia famiglia. È una cosa abbastanza divertente. Io ho messo una maglietta dell'ANC per andare al mio seggio, che ha l'87% di voti per la DA. Non ho neanche votato per l'ANC, ho votato l'EFF. Mio padre e mia madre, invece, come la mia famiglia, sono per la DA. Do la colpa all'EFF per le loro cattive politiche giovanili. Oggi è diventato molto importante essere consci della propria situazione politica. Penso che adesso i giovani qui siano molto impegnati anche sui social media e discutono molto di politica. Allora, ricordo sempre per meglio comprendere quello di cui stiamo parlando: AFF è l'Economic Freedom Fighters, DA Democratic Alliance, questo storico partito dell'opposizione che, spiegava Gaia Manco, c'è sempre stato ma ha ritrovato linfa vitale ultimamente, e l'African National Congress, che è lo storico partito sudafricano che ha monopolizzato la vita politica e di governo del paese degli ultimi 20 anni. L'ultima domanda che Gaia Manco, giornalista freelance da Pretoria, di base a Johannesburg, ma adesso l'abbiamo raggiunta a Pretoria, ha fatto a Kirsty è appunto perché ha votato per l'Economic Freedom Fighters. Sentite. I think I agree with a lot of what they're saying ideologically. Io sono d'accordo con molto di quello che dicono ideologicamente, anche se non sono necessariamente d'accordo con i loro leader. Ma se guardi oltre i discorsi, sono a favore di tematiche importanti, cose come Black Lives Matter o lo svantaggio della popolazione nera nel mondo, che viene ignorato nel mondo dai bianchi e dalle strutture. E l'idea stessa del razzismo strutturale è qualcosa che i partiti politici sudafricani non affrontano, cioè la riconoscono ma non la affrontano. E l'EFF sta diventando importante per il fatto che si concentra su questi problemi e dirige molte delle sue discussioni verso questi temi che sono molto importanti, anche per me in quanto sudafricana bianca. Mi considero come qualcuno che ha una coscienza sociale e politica e questi problemi devono essere portati alla luce. E queste erano le voci dei giovani elettori che Gaia Manco ha raccolto freschi freschi dopo il voto e probabilmente lì incollate agli schermi delle televisioni o del computer per seguire appunto lo spoglio elettorale di un appuntamento che si preannuncia storico in termini di risultati per molti, molti aspetti. Veniamo a un capitolo molto interessante, a mio parere, che è quello della stampa sudafricana. Come la stampa locale sta raccontando questa tornata elettorale? Gaia Manco, c'è lo stesso stupore e attenzione della stampa internazionale o in qualche modo questo nuovo equilibrio era già messo in previsione? Allora, l'ANC, il partito al governo, è già perso, insomma, il favore della maggior parte dei media, devo dire, da prima. Però se la stampa internazionale, almeno dal mio punto di vista, si concentra sul successo della GA e di questo leader carismatico Moussa Maimane, la stampa locale si concentra molto di più sul successo invece degli Economic Freedom Fighters, per cui l'ultimo contributo che abbiamo sentito era per loro che la nostra intervistata ha votato, perché dicono che adesso loro sono quelli che decideranno, perché avendo avuto circa il 7-10% in ogni città, sarà il partito che dovrà decidere se ci sarà una coalizione o no. È quello che viene definito in diversi giornali sudafricani Julius Malema, il capo del partito, il kingmaker, quello che farà il re, perché lui deciderà chi vincerà. Ed è una grandissima sorpresa, perché fino a tre anni fa, questo partito non esisteva, e quindi è un grandissimo successo, ed è un partito dichiaratamente per la popolazione nera povera, e anche quindi con degli accenti, diciamo, populisti e di sinistra, ad esempio per la redistribuzione delle terre, che è un argomento che sta molto a cuore ai sudafricani, perché è un problema che vivono tutti i giorni. Grazie mille Gaia Manca per questa precisazione. E noi nel frattempo, però, siccome leggendo i giornali sudafricani, ma non solo in tempi recenti, uno dei temi più importanti è certamente il tasso di corruzione in ambienti di governo, ma anche nelle municipalità. Allora abbiamo raggiunto Lucky Ronald Menoe, che è il vice direttore del Corruption Watch, che è questo think tank, questo osservatorio sudafricano. A lui abbiamo chiesto in che modo il tema, il dossier corruzione, ha influenzato i risultati di queste elezioni. Sentiamo insieme la sua voce. Well, I think the most important part for us as a country in South Africa, we trust the Independent Electoral Commission. E l'analista, l'osservatore, dice: l'aspetto più importante è che il Sudafrica ha fiducia nella Commissione Elettorale Indipendente. Pensiamo che negli ultimi 22 anni abbiamo sempre vigilato sul corretto svolgimento delle elezioni, fin dai primi voti. Ma il dato ancora più significativo è che vediamo che la corruzione è diventato un argomento cruciale per tutta la società. I membri della comunità, gli uffici governativi, il settore privato hanno cominciato tutti a discutere di corruzione. I cittadini sono stanchi di vedere corruzione nel paese. Quindi la maggior parte delle persone, dice Ronald Menoe, si sono recate ai seggi a votare per un Sudafrica libero da questo tema, libero dalla corruzione. È in questo modo che penso che la corruzione sia entrata nel dibattito elettorale delle elezioni di quest'anno. Gaia Manco, prima di salutarti e lasciarti al tuo lavoro, ti solletico su questo tema. Quanto i giornali sudafricani ultimamente hanno battuto sull'importante, appunto, fenomeno della corruzione, che non è solo sudafricano, però insomma quest'oggi parliamo di Sudafrica, quindi... Allora, moltissimo, però diciamo che ne avevano le ragioni. Pensate che il presidente Zuma, che probabilmente per questo si è tenuto molto in disparte durante queste elezioni, ha circa 700, è legato a circa 700 processi per corruzione al momento. Ed è infatti da notare che il posto dove il presidente Zuma è nato e cresciuto, in Kandla, un posto molto significativo nella zona Zulu del KwaZulu Natal, è stato perso dall'ANC a favore di un altro partito. È proprio il simbolo del luogo, della residenza che il presidente si è costruito con i soldi dei contribuenti. Quindi sì, per una volta, diciamo, non gliel'hanno fatta passare, sì, è stato troppo. Fra l'altro, Gaia Manco, se non erro, credo che Zuma sia stato condannato a rimborsare $500,000 che aveva sottratto i fondi appunto per la sua residenza. Per cui c'è stata anche una reazione da parte degli organismi giudiziari. Grazie mille Gaia Manco per essere stata con noi. Buona giornata, buon lavoro e buon proseguo di elezioni da Pretoria. Grazie a voi, alla prossima. Bemiri komansa kosoro behani koninkera ojugum bejoro Allora, con Gaia Manco abbiamo innestato il teleobiettivo nella nostra telecamera o macchina fotografica, se volete. Siamo arrivati a Pretoria, lì proprio per capire lo spoglio. Ormai manca veramente poco ed è un testa a testa di cui vi daremo conto ormai, direi, lunedì prossimo in una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Adesso vorrei montare il grandangolo e allargare un po' lo sguardo, perché vi stiamo raccontando queste elezioni municipali, qual è la loro importanza e l'importanza del Sudafrica nel continente africano. In questa nuova analisi ci soccorre il professor Ronco Ronza, che è docente di storia, esperto di storia dell'Africa all'Università Cattolica di Milano. Professor Ronza, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo è Lontano. Buongiorno. Allora, quanto è storica questa svolta e cosa significa? Teniamo conto, lo ricordo ai nostri ascoltatori, che le nuove elezioni, quelle legislative, si terranno nel 2019. Questo rischia di essere un bel banco di prova per il partito, per l'ANC, per l'African National Congress. Professore, il suo punto di vista. Sì, no, è una battaglia nel corso di una guerra che dura da un po', cioè da un po' di anni, più o meno dalle elezioni di Zuma nel 2009, e soprattutto la stampa internazionale, che ha legata anche ai mercati internazionali e che ha una spalla anche nella stampa sudafricana, spinge un po' per ridimensionare questo monopolio da parte dell'African National Congress. Quindi le elezioni municipali, tra l'altro, sono sempre state quelle in cui l'opposizione diciamo social-liberale a guida bianca della Democratic Alliance è sempre andata un po' meglio. Comunque siamo adesso a 54% contro 26%, cioè l'ANC è ancora saldamente oltre la maggioranza assoluta, sì. Ha sempre preso intorno al 60%, 62%, per cui diciamo, è un'erosione quella che si sta verificando. Diciamo che il fatto un po' storico è che le due grandi città del nord, cioè sì, Pretoria, Tshwane e Johannesburg, che da tempo si ritenevano quelle in cui poteva la classe media nera, una parte della classe media nera più insofferente verso la corruzione, potesse staccarsi dal blocco del voto africano, che ricordiamo è l'80%, il voto nero, sì, e che si identifica da sempre solo con l'African National Congress, un po' con questi partiti di sinistra che si sono alternati, l'ultimo questo Economic Freedom Fighters, ma che non ha mai votato per l'opposizione social liberale, che invece è sempre stata a guida bianca e ha sempre avuto il voto delle altre due minoranze, cioè i Coloureds o Meticci, sì, e gli indiani, che sono forti a Città del Capo, per sì, cui anche il fatto che Città del Capo sia sempre stata più facilmente, anzi normalmente governata da Democratic Alliance, fa parte di un quadro un po' statico. Sì. Ecco. La novità è che c'è un'erosione in una parte dell'elettorato nero più colto più urbano e più giovane, che è stata molto attesa, ma che sposta solo il voto appunto in queste grandi città. Allora, l'African National Congress è ancora saldamente molto forte invece nelle campagne, ecco, e nelle masse nere, dove comunque rappresenta ancora il l'equilibrio migliore tra delle politiche che tutto sommato allineate con l'ortodossia macroeconomica richiesta dai mercati, ma nello stesso tempo con un'attenzione a una ridistribuzione verso le masse nere, che non ha molte alternative di fatto, specie con la crescita molto bassa in cui adesso si è incagliato il Sudafrica negli ultimi anni. Sì. Allora, se ben sintetizzo, da un lato, se novità c'è, è novità nelle aree metropolitane. Sì. Dall'altro, è una novità un po', come dire, enfatizzata soprattutto dai media internazionali, e però c'è questa nuova figura, no, all'interno del partito a maggioranza bianca, questo Obama. Sì, nuovo, sì. Insomma, questo Julius, forse una ventata di novità vera la sta portando, o è un altro di quei personaggi che tanto piacciono a media e giornalisti? Julius, sì. Malema è lo spauracchio in realtà della stampa internazionale, perché sì, è il leader dell'Economic Freedom Fighter. E questo leader nero, giovane, è espressione di una nuova classe dirigente, per quanto piccola, nera, che ha scelto la Democratic Alliance. È attaccato in Sudafrica come fosse la facciata nera di un partito che resta comunque col suo lo zoccolo duro del suo elettorato, e quello bianco, meticcio indiano. Per cui diciamo che si sia potuti arrivare ad avere un leader nero significa che c'è un'area di consenso che inizia tra i neri, che inizia ad esistere, ma è ancora un'operazione di comunicazione. Sì, è ancora un segnale, un ponte lanciato nei confronti di un elettorato, sì, che poi andrà insomma costruito. Vediamo se da qui al 2019 questa novità prenderà realmente, realmente non sarà corpo. Facile, come diceva giustamente qualcuno, visto che dove vince la Democratic Alliance, eccetto che a Cape Town e nel Western Cape, dove bianchi e meticci fanno il 60-70% dell'elettorato, quindi vincono storicamente, sì, arriva a fare un 40-42% che la obbliga comunque a un'alleanza difficilissima con gli Economic Freedom Fighters, perché Democratic Alliance è più liberale, diciamo economicamente anche ortodossa. Il partito di Julius Malema invece è di sinistra antagonista, sì, per cui non è facile anche mettersi nei pezzi. Certo, professor Ronza, rimanga con noi, c'è l'informazione finanziaria, poi proprio sull'economia del paese africano andrò a chiederle lumi. A tra poco. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è lontano. Le elezioni municipali in Sudafrica, lo spoglio è quasi terminato, una sorpresa, una quasi sorpresa a sentire i nostri ospiti, Gaia Manco, giornalista freelance che abbiamo appena salutato in diretta da Pretoria, e il professor Ronza, invece esperto di storia dell'Africa contemporanea della Cattolica di Milano. Professore, c'è un tema molto molto importante, il Financial Times ultimamente ha spesso e volentieri raccontato come il rischio di recessione stia aumentando nel paese. Il Sudafrica è il paese africano forse più industrializzato e quindi, come dire, è di importanza vitale per l'intero continente anche capire dove sta andando. Secondo gli ultimi dati l'economia si sarebbe contratta dell'1,2%. È il tema economico il motivo più grande di preoccupazione per la nuova compagine politica che poi si sfiderà in vista del 2019? Sì, quello economico e quello sociale, perché il Sudafrica è anche un paese è più industrializzato dell'Africa senza alcun paragone, anche il sorpasso della Nigeria di 2 anni fa è stato legato molto all'aumento del prezzo delle materie prime e dell'energia, che invece non è, per quanto importante, non è tutto nell'economia sudafricana, unica in Africa, ma è anche un paese estremamente polarizzato dal punto di vista, notoriamente, ricchi e poveri, con un coefficiente di Gini tra i più alti al mondo e con un divide tra ricchi e poveri che si è un po' deracializzato, nel senso che una parte del Sudafrica ricco, sì, è diventato nero, ma resta fortissimo. Immaginate che in Sudafrica, dico un dato che serve anche per capire i paradossi, su 53 milioni di abitanti le tasse sono pagate da 6 milioni, che sono in gran parte bianchi, una parte ormai di neri, e paga sostanzialmente sussidi sociali a 16 milioni di abitanti che non sono in condizioni o per disoccupazione o per redditi troppo bassi di vivere con le loro forze. Certo, quindi questo è un paradosso, come dire, nevralgico, importante, chi va a guidare il paese poi su questo si deve ovviamente sì, confrontare. Ha una sua, storicamente una sua formula che la Democratic Alliance a mio giudizio non ha ancora definito, cioè da una parte la pressione per deracializzare il Sudafrica ricco, diciamo così, quindi far entrare i neri anche a viva forza attraverso politiche di azione affermativa dentro alle corporation, dentro al parastato e dentro anche all'elite economica, da un lato, senza però tenendo a bada di fatto le masse nere con appunto una capillare distribuzione di sussidi che non altera però questo gap tra ricchi e poveri. Questa è la formula con cui l'ANC ha tenuto insieme il paese, ha tenuto moderatamente in crescita, ma ha fallito nella aspettativa che i mercati avevano di farne il motore, specie negli ultimi anni, un po' dell'Africa subsahariana. Sì. Questo è un po' il problema sudafricano oggi. Che vedremo appunto se i nuovi politici che stanno emergendo riusciranno a risolvere. Il prossimo appuntamento, lo dicevo, il 2019. Grazie mille. Rocco Ronza, docente dell'Università Cattolica di Milano, esperto di storia dell'Africa. Buona giornata, professore, buon lavoro. Buona giornata, salve. Thank you. Allora adesso cambiamo decisamente argomento, come preannunciato nell'anticipazione. Vi racconto una storia incredibile, che è la storia del più grande scandalo finanziario che ha colpito la Malaysia. È un intreccio fatto, se volete, anche di... sembra un canovaccio scritto a Hollywood e suona proprio come un film di Hollywood. Sentite. Regola numero uno a Wall Street. Nessuno. Ok, se sei Warren Buffett, allora forse sì. Nessuno sa se la borsa va su, giù, di lato, in circolo. Meno che mai i broker, ok? Mm-hmm. È tutto un fugesi, lo sai che vuol dire fugesi? È fugasi, sì, che è falso. Ok, fugesi, fugasi, fugasi, volante, polvere di stelle. Non esiste, non tocca terra, non ha importanza, non è sulla tavola degli elementi, no, non è reale, cazzo. Ho capito. È chiaro, chiaro. E se questa storia finisce, diciamo, con la faccia di Leonardo DiCaprio e con questo film di Martin Scorsese datato 2013, Il lupo di Wall Street, in realtà parte da molto molto lontano, parte dalle bellissime spiagge, da economie in forte crescita, un grande export di petrolio, varie risorse naturali, parte dalla Malesia, un paese in cui vige un curioso sistema di rotazione del trono, nel quale il re viene eletto tra i sultani dei 13 stati che compongono questa nazione federale, che rimane in carica 5 anni. Un passato meticcio, perché è stato conteso tra portoghesi, olandesi, britannici, poi l'indipendenza nel 1963. Oggi la Malaysia è una delle nazioni più dinamiche del sud-est asiatico, ma se il suo simbolo sono le altissime Petronas Towers che svettano sulla capitale Kuala Lumpur, gran parte della popolazione vive invece in condizioni economiche molto molto precarie, paese a maggioranza malese appunto, ma anche con forti minoranze cinesi, circa se non più il 20%. Ma veniamo alla storia che cerchiamo di raccontarvi quest'oggi. Najib Razak, che è l'attuale primo ministro, è stato coinvolto nello scandalo denominato 1MDB, che è una società di sviluppo del fondo sovrano malesiano, dal quale a un certo punto vengono sottratti 3,5 miliardi di dollari. I soldi dovevano confluire in fondi pensioni e nuovi investimenti, ma vengono sottratti da questa società che si chiama Petro Saudi, di proprietà di un figlio dell'ex re saudita, e dal malesiano Joe Lo, che è uno dei migliori amici del figlio del primo ministro malesiano. I soldi, udite bene, sono finiti in conti correnti privati, appartamenti di lusso a Manhattan, quadri di Monet e parte della produzione del film Il lupo di Wall Street. Allora, se non fosse tutto vero, verrebbe da sorridere. Eugenio Buzzetti, giornalista di AGI, Agenzia Giornalistica Italia da Pechino, autore dell'ebook autoprodotto L'ultima volta a Kuala Lumpur, che racconta uno scandalo precedente, sempre riguardante quell'area e quel personaggio, e dove si intrecciavano intrighi amorosi e speculazioni finanziarie. Eugenio Buzzetti, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, dicevo, i contorni sono veramente da, voglio dire, una grandissima penna avrebbe potuto scrivere un canovaccio come questo. In realtà è tutto vero. Najib Razak, primo ministro, quanto è stato toccato da questo scandalo? Cioè, quanto il suo potere è stato toccato? È una cosa di cui hanno parlato sulle media internazionali o a Kuala Lumpur se ne è parlato e quindi lui in qualche modo ha tremato? Sì, Najib Razak, come ricordavi prima, non è nuovo a questo tipo di scandali, appunto. La sua è una figura, diciamo, innanzitutto è un uomo che viene dal potere, è cresciuto nel potere, è oggi il sesto primo ministro della Malesia e il terzo della sua famiglia. Il secondo primo ministro era stato suo padre, il terzo suo zio, prima appunto degli anni Ottanta, che sono stati dominati dalla figura di Mahathir Mohamad, che oggi sembra scaricare appunto Najib, che con il quale aveva in qualche maniera era cresciuto proprio negli anni 80 e 90 sotto la leadership di Mahathir. Najib ha dimostrato già in passato di sapere reggere bene a scandali anche molto molto forti, che potevano costare anche una destabilizzazione del potere in Malesia, che non dimentichiamolo appunto dalla data dell'indipendenza a oggi, dal 1963 a oggi, rimane nelle mani di un unico partito, proprio sì. Il partito di Najib Razak. Come avevi ricordato, sono state grosse contestazioni nei mesi scorsi in Malesia, si parla appunto di uno scandalo enorme, con conti con 680 milioni di dollari che sarebbero finiti direttamente nelle tasche di Najib Razak, e che sicuramente è lo scandalo finanziario più grande che ha investito il paese, che potrebbe far tremare la leadership di Najib. Allo stesso tempo difficilmente, anche proprio per il passato dello stesso Najib, si può pensare che un'inchiesta di questo genere, o comunque uno scandalo anche così grande, possa compromettere il potere di un uomo che appunto è cresciuto nel potere, che conosce probabilmente meglio di chiunque altro in Malesia le dinamiche di chi gestisce il potere da generazioni, possiamo sì. dire. Fra l'altro, voglio dire, come dire, a dargli sicurezza ci sono alleati molto molto potenti. Qual è il ruolo dell'Arabia Saudita in questo giallo? Perché sempre a gennaio Najib Razak ha dovuto rispondere davanti alla Procura Generale di quei 688 milioni di dollari di cui facevi riferimento tu, che erano comparsi sul suo conto. E lui ha detto: ma è una donazione diretta della famiglia reale saudita, un premio per il sostegno alla causa dell'Islam sunnita e alla lotta contro l'ISIS. Allora, a voler leggere tra le righe, tra le pieghe, questa vicinanza con l'Arabia Saudita viene da dire che questo paese sta rientrando nell'orbita di Riyadh in maniera sempre più prepotente. Sei d'accordo? Telegrafico su questo, si riesce. Potremmo essere d'accordo su questo. Possiamo anche dire che Najib non ha mai in qualche maniera fatto, non si è mai preoccupato di mentire o in qualche maniera di eccedere nelle dichiarazioni, pur appunto di salvare la propria immagine di uomo politico, che però è abbastanza compromessa e in qualche modo risente anche nei consensi a livello popolare sicuramente. Adesso c'è l'informazione sul traffico, caro Eugenio, poi ti solleticherò invece su quello che è stato il tema del tuo libro, un altro scandalo, ma lì insomma c'erano anche delle tinte rosa, e su quello ti solleticherò tra pochissimo, resta con noi. Nessun luogo è lontano. Najib Razak, attuale primo ministro, quando era ministro della difesa, siamo in Malesia, venne coinvolto in un altro scandalo a base di tangenti, nella quale però c'entrava anche l'omicidio di una modella mongola. Questa vicenda è stata raccontata da Eugenio Buzzetti, che è giornalista di Agi da Pechino, autore dell'ebook autoprodotto L'ultima volta a Kuala Lumpur, che racconta appunto questo evento. Eugenio Buzzetti, raccontacelo come se fosse un piccolo telegramma. Come ricordavi prima, in effetti gli scandali in Malesia hanno sempre qualcosa di hollywoodiano, e soprattutto quello a cui fai riferimento e riguarda appunto la morte in un quartiere residenziale di Kuala Lumpur di una ragazza mongola che è stata uccisa da forze speciali che facevano capo proprio all'allora ministro della difesa. Siamo nel 2006, alla fine del 2006, il ministro della difesa della Malesia era proprio Najib Razak, che era anche vice primo ministro, quindi candidato a diventare poi primo ministro negli anni successivi, come poi è successo nel 2009. E appunto da qui parte uno scandalo che vede appunto la questa ragazza di origine mongola legata a un uomo, un certo Abdul Razak Pajminda, che era il capo del maggiore think tank della difesa in Malesia e che era un sodale, un amico personale appunto di Najib, e che era tornata a Kuala Lumpur appunto per chiedere la propria parte in una maxi commessa multimilionaria militare che aveva concluso appunto il Ministero della Difesa guidato da Najib. Lo scandalo si è ripercosso nel corso degli anni. Najib era riuscito addirittura a far vietare di pronunciare il nome di questa ragazza, che era Altantuya, almeno nei luoghi pubblici, il suo potere sembrava, la sua ascesa, diciamo, al ruolo di primo ministro sembrava compromessa, mentre poi invece è riuscito con un colpo di coda in qualche maniera a riprendere il potere. Se vogliamo fare un paragone con lo scandalo UNDP, possiamo ritrovare appunto dei punti di contatto nel caso di quel maxi scandalo di tangenti legato alle commesse militari del 2007. L'uomo di riferimento di Najib era il capo di un think tank della difesa, questo Abdul Razak Baghinda, che ha un nome molto simile a quello di Najib. In questo caso appunto c'è questo Joe Law, dedito appunto a una vita ben al di sopra delle righe, che è amico appunto della famiglia di Najib. In qualche modo ci sono sempre intermediari in altri paesi che riescono a nascondere, a far passare dei soldi e a farli transitare poi appunto nelle tasche direttamente della famiglia Najib. Quindi abbiamo in qualche maniera un quadro di, possiamo definirli, reati finanziari a livello transnazionale che passano in qualche maniera al di sopra della Malesia, dell'opinione pubblica stessa della Malesia, e abbiamo anche delle teste che cadono, perché durante lo scandalo del primo scandalo relativo alla ragazza mongola, a farne le spese è stato l'allora leader dell'opposizione in Malesia, Anwar Ibrahim, che è stato con un sotterfugio, pare, condannato, prima processato e poi condannato per la seconda volta per sodomia, che rimane un reato in Malesia, mentre invece lo scorso anno a cadere in Malesia è stato l'allora vice primo ministro Muhyiddin Yassin. Eugenio, ti fermo qua. Eugenio Buzzetti, prego. Corrispondente da Pechino per l'AGI, insomma, gli ascoltatori che si siano appassionati a questo scandalo, prima il precedente, possono comprare il tuo libro, lo ricordo, L'ultima volta a Kuala Lumpur, è un ebook. Grazie mille Eugenio, buona giornata e buon lavoro. برا لحس البغض والزوارة برا برا لحس الحزن ما بقى أمان. Abbiamo pochi minuti in quest'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Voglio riportarvi in Africa, perché chi ci ha seguito questa prima settimana di programmazione avrà anche ascoltato l'approfondimento che abbiamo fatto su Boko Haram. Ebbene, alcuni giorni fa, anzi un paio di giorni fa, sulla rivista Al Naba di ISIS, Abu Musab al-Barnawi era stato presentato come il nuovo emiro di Boko Haram. Mercoledì sera Shekau ha fatto sentire la propria voce. E quindi quello che si sta profilando nelle ultime ore è una lotta di leadership, un vero e proprio braccio di ferro. In realtà da una parte quella che potremmo, con il linguaggio economico, sembra un'OPA, no? Molto aggressiva da parte di ISIS dall'alto e dall'est, dal Medio Oriente fino appunto nel nord-est della Nigeria. Dall'altro il sanguinario leader storico dopo Mohamed Yusuf del gruppo Boko Haram, che dice no, attenzione, guardate che io sono ancora qui, sono ancora presente e lotto assieme ai miei miliziani. Abbiamo raggiunto allora nuovamente Nicola Corten, che è analista, esperto di Africa, caporedattore della rivista Afrique Contemporain. A lui abbiamo chiesto che cosa sappiamo della nuova leadership di Boko Haram. Sentite. Ce qu'on sait, c'est que il était considéré comme le. Quello che sappiamo del nuovo leader è che viene considerato uno dei più recenti portavoce di Boko Haram. Per tutto il periodo 2015-2016, il capo storico Abu Bakr Shekau non è intervenuto con messaggi video e si è manifestato ai seguaci solo con 3 interventi audio, trasmessi peraltro attraverso canali molto insoliti, e ciò ha mostrato il progressivo isolamento di Boko Haram. Il nuovo capo pare investito direttamente dallo Stato Islamico, era già uno dei RAS di Boko Haram. Personalmente ho molti dubbi sul fatto che sia camerunense o non nigeriano, come è stato detto. Mi pare probabile che sia un Kanuri, ossia dello stesso gruppo linguistico e culturale di Abu Bakr Shekau. Ma la cosa più importante da dire è che Shekau è stato ferito più volte durante le operazioni militari contro Boko Haram. Sappiamo che nel 2015 è stato colpito a un braccio e alle gambe e che queste ferite sono state curate in maniera molto approssimativa. La salute di Shekau, viene considerata molto precaria. Probabilmente ha avuto gravi difficoltà nel comandare le operazioni dei diversi capozona di Boko Haram e quindi questa è la prima ragione per la quale lo Stato islamico ha scelto di rimpiazzarlo. La seconda ragione è dovuta ad alcune divergenze strategiche, ma anche dottrinali e ideologiche, tra CKU e lo Stato islamico, perché agli occhi dei duri dello Stato islamico CKU è un tipo incontrollabile, non omologato alla linea salafista dura e pura. Lo vedono come un capo guerrigliero iperviolento, ma difficile da dirigere, malgrado sia stato proprio lui a trasformare Boko Haram da piccola setta islamica clandestina in un'organizzazione terroristica strutturata, davvero capace di seminare il terrore in Nigeria e in tutte le nazioni vicine, come il Niger, il Chad e l'estremo nord del Camerun. E également all'extremo nord du Cameroun. E quindi viene spontaneo e naturale chiedersi se ISIS, il brand, non stia tentando di acquisire appunto Boko Haram, che è già una cellula, molto più di una cellula, molto attiva e molto operativa nel nord-est della Nigeria. Sentite cosa dice Nicola Courten. Possiamo interpretare la reazione di CKU di mercoledì 3 agosto e il suo messaggio audio come il tentativo di riprendersi un gruppo che gli è sfuggito, e Boko Haram gli sfugge perché lo Stato islamico sembra ormai averci messo le mani. D'altra parte non dobbiamo dimenticare che in Boko Haram c'è anche un consiglio di saggi, di diversi comandanti dotati di autorità religiosa o di autorità militare che prendono delle decisioni. Il messaggio di CKU può essere l'ultima possibilità per mantenere la leadership e riaffermare la sua posizione di capo supremo dei diversi gruppi di Boko Haram. E può darsi che ciò che abbiamo visto mercoledì avrà conseguenze importanti sul piano strategico. Quest'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, siamo tornati su uno dei temi che abbiamo trattato durante la settimana, e quindi la setta islamista, organizzazione terrorista di Boko Haram e la sua influenza nel nord-est della Nigeria. Vi raccontavamo in settimana come da poco alcuni operatori umanitari e l'esercito nigeriano abbiano aperto dei corridoi e si siano spalancati delle porte di fuga, delle vie di accesso per popolazioni che per mesi erano state completamente chiuse rispetto all'ambiente esterno. Maiduguri, nel stato del Borno, accoglie 1.200.000 rifugiati che provengono dalle zone circostanti. Questi sono gli esiti della formazione terroristica in seno alla quale questo braccio di ferro intriga soprattutto gli analisti, perché da una parte abbiamo questo forte brand dell'ISIS che tenta di metterci le mani sopra, dall'altro abbiamo questo CKU che, morto ormai decine di volte, fa parte dell'epica della narrazione giornalistica, che è ancora lì che dice: no, sono ancora io il capo. Ho ancora pochi minuti e anche pochissima voce, però riesco a darvi anche un aggiornamento su un'altra storia che vi abbiamo raccontato in settimana, che era quella dell'Uganda Pride, cioè il Gay Pride che partiva da Kampala, non solo, appunto alcuni giorni fa, e vi sarebbe stata la chiusura tra sabato e domenica. Ebbene, la scorsa notte, come anche Frank Mugisha, che è l'attivista che abbiamo intervistato, temeva e l'aveva detto, vi è stata una reazione piuttosto violenta della polizia, che ha fatto irruzione in un locale di Kampala dove si teneva una delle feste appunto per questo Pride, arrestando almeno 20 persone. Allora, se volete saperne più, l'hashtag è Uganda Pride. Fra i tanti giornali c'è anche il Guardian, che sta seguendo la cosa. Le cifre, scusate, oscillano tra i 17 e i 20 arresti. La polizia non sarebbe stata violenta, ma nemmeno particolarmente tenera. Tra gli arrestati vi sarebbero anche i proprietari del locale nel quale si teneva appunto la serata che in qualche modo preludeva alla chiusura di questo Uganda Pride. Sì. Questo era l'ultimo aggiornamento per questa puntata di quest'oggi di Nessun Luogo Lontano, con il quale chiudiamo la settimana. Adesso i titoli di coda. Con i quali ringrazio Andrea Roccabella in regia, Antonio Talia, Eleonora Aragone e Silvia Mannati in redazione, voi per essere stati all'ascolto. Vi ricordo che l'appuntamento alla replica è alle 21, il meglio della settimana è domattina alle 9, l'appuntamento di nuovo di Nessun Luogo Lontano sarà per lunedì ore 16. Io vi aspetto, intanto un saluto e un augurio di buon weekend da Giampaolo Musumeci.